fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. È la più grande notte dell'anno, la più bella, dicono anche la più lunga, chi lo sa. Quello che è certo è che la stiamo vivendo insieme qui al Convento di Lonato. Benvenuti o bentornati, sintonizzati su Risto Radio Convento, la web radio del Convento di Lonato del Garda. Per informazione e didascalia, è passata 1:16 dall'inizio di questo 2020 e noi le inauguriamo come l'abbiamo terminato, cioè parlando con i nostri ospiti, con i nostri amici, dando spazio e microfono alle loro emozioni, a quello che stanno passando. Allora, ragazzi, benvenuti, abbiamo qui una coppia, come vi chiamate? Gaia e Mattia. Cioè, tutte e due, tu sai se Gaia e Mattia. Io mi chiamo Gaia e Mattia e poi la mia ragazza si chiama Gaia. Bellissimo. Quindi vi siete conosciuti in un raduno di gente che aveva lo stesso nome, lo immagino. Esatto, mi cazzo fa saperlo. Tenerebbe immaginato se tu ti chiami Gaia e Mattia. Sei un pazzo, figa. Tra l'altro, cioè, tu ti chiami Gaia e Mattia insieme, cioè non io Gaia. Mi chiamo Gaia e Mattia, la mia ragazza si chiama Gaia. Dico anche fatalità. No, volevo specificare al pubblico che ci sta ascoltando che c'è anche la congiunzione che è fondamentale nel la senso. E che esatto, cioè non è Gaia e Mattia, ma è Gaia e Mattia. Parte integrante del nostro rapporto. È incredibile, una e li ha uniti. Allora, da dove venite, ragazzi? Allora, veniamo dalla capitale del Valsabbia, Bovarno. Addirittura la capitale, esatto, della Valsabbia. Sì. Come mai è stata insignita di questo titolo? Non te lo posso dire, un segreto. Ah no, vabbè, insomma, è giusto, no, è giusto che i localismi e, come dire, le particolarità di ogni comune e di ogni zona vengano mantenute, insomma, preservate. Ti faccio una domanda, da dove vieni, caro? Io vengo dalla provincia di Mantova. Ma veramente? Sì. Che non ha nulla a che fare con Bovarno, dall'altra parte del mondo. Cazzo, sì. Dall'altra parte del mondo, però beh, da qualche parte devo venire, insomma, anch'io una provenienza, quindi dalla provincia di Mantova. Tra l'altro, insomma, l'interessantissimo quello che sta dicendo Gaia, che è protagonista, sì, assoluta, lei è protagonista, di questa intervista. Cosa ne pensi della serata? Cioè, i ragazzi si comportano bene? I dipendenti del convento Lonato fanno il loro lavoro, secondo te, Gaia? Dimmi. Ok, tutto a posto, sì, non è perché ci ha dato 50 euro prima il ragazzo qui di fianco a me. No, più che altro fermiamola perché non smette di parlare, quindi dobbiamo proprio toglierle il microfono perché è veramente incontrollabile, di un logorroica fino al midollo. Allora, ragazzi, come vi siete conosciuti voi due? Allora, noi ci siamo conosciuti ben quasi 6 anni fa, in discoteca. Sì. Poi c'è stato sempre un po' di alti e bassi fra di noi, fino poi... la situazione si è stabilizzata 4 anni fa e adesso la nostra relazione continua a gonfie vele. A gonfie vele da 4 anni. Quindi. 4 anni. Bene, bene, bene. E cosa, insomma, cosa vi unisce? Cosa ha fatto scattare quel qualcosa in più per far partire la vostra relazione? Ci unisce l'essere un po' mongoloidi entrambi. Beh, che è fondamentale. Ridere, scherzare sempre, però avendo ben fissi gli obiettivi da inseguire, fare sacrifici appunto per raggiungere questi. Dopo capisco che sia difficile stare con una chiacchierona come Gaia, no, perché infatti non ce la faccio più, incontrollabile, ragazzi. È incontrollabile, però è una insomma roba incredibile. Si dice che insomma dalla famosa altra metà della mela, evidentemente è incredibile. Ci sono delle cose anche belle in Gaia, oltre al fatto che chi parla. Sì, vabbè, la sua dote appunto è nel fatto di che parla una cifra. Sì, cioè, sì, insomma, è una ragazza di compagnia, sempre qualcosa da dire. Perfetto. Gaia, vuoi come dire illuminarci questo inizio del 2020 con un tuo pensiero, il Gaia pensiero? Per la vita, grande. Potevi anche essere un po' più scontata, era pro troppo live ricercata. A tutti, raga, pro live. Esatto, era veramente troppo cuore. Ricercata. E tu invece vuoi fare un blanco di adamantio, amanti gnoma d'altro canto, in mota accanto, i frate che mi stanno chiamando. E citazione di? Tua sorella. No, non è così brava. Blanco in cobla, raga. E chi è? Non te lo posso dire, è sempre un segreto. Madonna, è l'uomo dei segreti questo ragazzo, è veramente l'anonimo fatto a persona. Allora, volete mandare, siete qui da soli? Vogliamo con amici? Vogliamo salutare Jessica. Jessica è la gemella di Gaia e Alberto. Davvero, è una gemella Gaia? Lei è ancora più chiacchierona. Ancora più chiacchierona. La gemella di Gaia, penso che bello. E Alberto, hai detto? Alberto. Ok, volete fare un augurio anche a loro? Volete auguriamo lasciare un grandissimo 2020 e che sia l'ora del nipote. Ah, così proprio. Esatto. Sponsorizzi l'arrivo del nipote. Nipote o nipotina, va bene, sempre ben accetta, bene, uguale. Non è un problema. E buon 2020 a tutti. E siamo qui al convento, spacca. Perfetto. Di brutto, venite l'anno Perfetto. Prossimo. Io no, non voglio anticipare i tempi, però sorgeva spontanea una domanda. Visto il tuo nome nome di battesimo. Se dovesse mai, mai, in un ipotetico domani, nascere un figlio vostro, come lo chiami? Cioè, con quanti se nomi è femmina, Jessica e Alberto. Se è maschio, Alberto e Jessica. Direi che è illuminante. Direi che è illuminante. Gaia, tu sei d'accordo? No, assolutamente, è incredibile. Tra l'altro, vorrei dirti che se è maschio, chiamandolo Alberto e Jessica, potete anche chiedere i diritti di sponsorizzazione a un noto marchio. No, a un noto marchio di vestiti. Assolutamente. Che no, non si può dire. Non perché, si può dire perché ovviamente qua pubblicità. Metti vicine le iniziali, lo puoi capire. Ecco, vedi, esatto, ci sei già arrivato, siamo, perché noi ci capiamo. Quindi potete anche, insomma, far fruttare questa nascita e mettervi anche dei buoni soldini in tasca. Gaia caldo. Gaia caldo, va bene. Tra l'altro è l'1 gennaio, quindi è normale. Tra l'altro mi stanno dicendo dalla direzione qua, taglia. Taglia, che va bene, tagliamo assolutamente. Allora, ringraziamo i vostri auguri, ringraziamo voi per gli auguri che avete fatto. Speriamo che la vostra profezia su Jessica e Alberto funzioni. E allora vai, ancora un saluto da? Da Gaia e Mattia. E Mattia, benissimo, grazie. Bacio, ragazzi, ciao. Buon anno e tanti auguri. Ciao.